finisce la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Yeah.

benché dicevamo non c'è vento questa sera che normalmente introduce la corruzione del suono, qualche altro fenomeno invece sconosciuto di intoppo dei beat nella macchina, nei circuiti della macchina, ad alterare Frosted Thread, si continua con Black Eyes The Numb, che io manderei da capo. Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza, questo è 25 o'clock, Black Eyes. Yeah. vedemmo ed ascoltammo i NAM in un concerto per pochi intimi, non così pochi, però insomma, in un parchetto al Prenestino. Insieme ai Black Rainbow dalla Pennsylvania, NAM, Black Eyes. La nostra passeggiata nello spazio prosegue con chi lo spazio lo frequenta, almeno con l'anima, col cuore, col desiderio. Extrasolari, Cobol Pongide, Cosmonauta in Pectore, è un'altra di quelle, di quei compagni, di quelle persone che avremmo voluto ospitare, magari anche attraverso una telefonata remotizzata. E lo eravamo ripromessi. Questa è come Andromeda, Cobol Pongide, che ci serve anche come introduzione poi a le prossime due tracce di Velester, Dark Awake, ovviamente un omaggio agli Oakwind. E poi Dark Awake Remix nel giro di poche ore. Le due produzioni. Noi vi lasciamo quindi a Cobol Pongide, a Comandromeda, lo mandiamo da capo, e poi i due Velester nuovi di zecca da capo. We'll be right back. Non ne ho idea. So solo che non siamo dove eravamo. La nostra posizione nello spazio è cambiata. So solo che non siamo dove eravamo. La nostra posizione nello spazio è cambiata. La nostra posizione nello spazio è cambiata. La nostra posizione nello spazio è cambiata. E non reagisce a nessuna cura? No. Accelerazione in aumento. Telesonda. Accelerazione in aumento. Telesonda. La forza di gravità si intensifica. Identità dell'acqua. Accelerazione in aumento, forza di gravità si intensifica. Identità dell'acqua. La forza di gravità si intensifica. Identità dell'acqua. Carica. Tutto bene? Sì. Controlli se le astronavi hanno suonato. Controlli se le astronavi hanno suonato. Controlli se le astronavi hanno suonato. Controlli se le astronavi hanno subito dei danni. Bene. Un fenomeno astrale che noi non comprendiamo ci trasporta per miliardi di anni luce attraverso lo spazio. Per quanto incredibile, lo accetto. Ma riportarci esattamente nella stessa orbita in cui ci trovavamo ci trasporta per miliardi di anni luce attraverso lo spazio. Per quanto incredibile sia. Un fenomeno astrale che noi non comprendiamo ci trasporta per miliardi di anni luce attraverso lo spazio. Per quanto incredibile sia. Un fenomeno astrale che noi non comprendiamo ci trasporta per miliardi di anni luce attraverso lo spazio. calcolato bene. Non ci sono dubbi. Il computer ha confermato che quello è un sole con 9 pianeti. Ponte la telesonda sul terzo pianeta. Cano, chieda al computer l'identità del terzo pianeta. Terzo pianeta, distanza media dal Sole 93 milioni di miglia, diametro equatoriale 7926 miglia, giorno siderale medio 23 ore 56 minuti. È il terzo tra i pianeti del nostro sistema solare. Nome Terra. Velocità. È il terzo tra i pianeti del nostro sistema solare. Nome Terra. È il terzo tra i pianeti del nostro sistema solare. Nome Terra. È il terzo tra i pianeti del nostro sistema solare. Nome Terra. Velocità della Luna in diminuzione. Sta entrando in orbita attorno alla Terra. Terra, rispondete, base lunare alfa chiama Terra. Base lunare alfa chiama Terra. Rispondete Terra, non vi riceviamo. Ma forse voi ci sentite. Il computer ha previsto. Terra, rispondete. Base lunare alfa chiama Terra. Base lunare alfa chiama Terra. Terra, rispondete. Base lunare alfa chiama Terra. Base lunare alfa chiama Terra. Rispondete. Base lunare alfa chiama Terra. Terra, rispondete. Terra, rispondete. Base lunare alfa chiama Terra. Base lunare alfa chiama Terra. Base lunare alfa chiama Terra. Base lunare alfa chiama Terra. Base lunare alfa chiama Terra. Ma forse voi ci sentite. Il computer ha previsto che dovremmo rientrare nell'orbita terrestre in 45 ore. Forze gravitazionali in progressiva compensazione. Onda d'urto come previsto. No. Shock, emicrania, sdoppiamenti di immagine. Tutti le stesse manifestazioni. E tutti ci siamo ripiuti, tranne Regina. Le sue condizioni vanno sempre peggiorando. Sì, ma il suo male può essere diagnosticato. Capito? Mentre quello che ci succede fuori nello spazio non ha spiegazione. Shock, emicrania, sdoppiamenti di immagine. Tutti le stesse manifestazioni. E tutti ci siamo ripresi, tranne Regina. Le sue condizioni vanno sempre peggiorando. Sì, ma il suo male può essere diagnosticato. Capito da noi. Mentre quello che ci succede fuori nello spazio non ha spiegazioni. Sandra, chiami tutte le sezioni. Voglio un rapporto urgente della situazione. Sì, comandante. Cano, controlli le telesonde e i sensori. Sandra, chiami tutte le sezioni. Voglio un rapporto urgente della situazione. Sì, comandante. Cano, controlli le telesonde e i sensori. Gli indici di velocità sono saltati. Gli indici di velocità sono saltati. Gli indici di velocità sono saltati. Gli indici di velocità sono saltati. Gli indici di velocità sono saltati. Gli indici di velocità sono saltati. Gli indici di velocità sono saltati. Gli indici di velocità sono saltati. Gli indici di velocità sono saltati. Gli indici di velocità sono saltati. Gli indici di velocità sono saltati. Gli indici di velocità sono saltati. Gli indici di velocità sono saltati. Gli indici di velocità sono saltati. Gli indici di velocità sono saltati. Gli indici di velocità sono saltati. Sono fuori. Arrivi in déjà vu. Non sai quanto ti sembra di essere già stato in un certo posto. Un'esperienza molto comune. No, è qualcosa di più semplice. Se fosse una forma comune, potrei collegare. Regina è convinta di vivere realmente un'altra vita. La sua vita attuale, sua alfa, sembra non esistere più. Sa del nuovo sistema solare? No. L'unico riferimento per lei è questa esistenza del reale. Ma purtroppo il lato più peloso è che sta soffrendo molto. È convinta che tu e Alanta siate morti. Ma perché ti è successo solo a te? È vero. Tutti abbiamo vissuto gli stessi tanti. Non lo so. Io voglio capire la relazione tra quello che è successo e il suo stato. Eccolo. A quanto pare, abbiamo viaggiato a una velocità maggiore di quella della luce, che vuol dire che il tempo ha cambiato i suoi valori, quindi può darsi che Regina stia vivendo una vita passata. Forse perfino una vita futura. Ma diventerà adesso. È convinta di vivere su un pianeta, all'aria aperta, col sole, il vento e gli altri. Rivivere il déjà. Non sai quando ti sembra di essere già stato in un certo posto? Un'esperienza molto comune. No, è qualcosa di più serio. Se fosse una forma comune, saprei come trattarla. Regina è convinta di vivere realmente un'altra vita. La sua vita attuale su Alfa sembra non esistere più per lei. Sa del nuovo sistema solare? No. L'unico riferimento per lei è questa esistenza irreale. Ma purtroppo il lato più penoso è che sta soffrendo molto. Soffre? È convinta che tu e Alan Carter siate morti. Ma perché ti è successo solo a Regina? È vero, tutti abbiamo vissuto gli stessi fatti. Non lo so. Io voglio capire la relazione tra quello che è successo e il suo stato. Ecco, a quanto pare, abbiamo viaggiato a una velocità maggiore di quella della luce, che vuol dire che il tempo ha cambiato i suoi valori, quindi può darsi che Regina stia vivendo una vita passata. Darsi perfino una vita futura, ma diventerà adesso. È convinta di vivere su un pianeta, all'aria aperta, col sole, il vento e gli altri. Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza, questa è la cavalcata cosmica, grazie a Cobol Pongide e poi ancora. E poi ancora insieme a Velester alle sue produzioni. Dark Awoks e Dark Awoks Ox Remix. Ormai al, come si dice, al limite del mercoledì, un minuto alla mezzanotte. E dai vecchi Hawkwind, It's So Easy. Passiamo a sonorità molto più recenti. Venti, questa è la terza uscita per i Fuzz. Terza uscita che si chiama terza, o tre al numero romano. Ormai entrati nel pieno del delirio, quando appunto come recita il sottotitolo di 25 o'clock, anatemi e rifiuti urbani, il tempo rubato ai ritmi del consumo e della produzione. Il tempo appunto collassa in questo periodo, perde di significato. Fuzz, Time Collapse. Time. evidentemente la macchina non ce l'ha fatta, non ha resistito a time collapse. Un'occasione quindi per risentirla in futuro, tutti 6 minuti e 12 da capo. La macchina non ce l'ha fatta e prepotentemente si è inserito Little Quincy Johnson. 25 o'clock, Radio Onda Rossa, ancora in diretta, benché da lontano dagli studi della radio, e questo si ascolta, si sente. Ci scusiamo perciò con tutti e tutte se di tanto in tanto la trasmissione si interrompe, ma dai, poi ricuciamo tutto in fase di elaborazione del podcast. Ora da capo di nuovo Boogie Lovers, Black Mountain, almeno ascoltiamo interamente questa roba qua. Anche qui 2019, tempi recenti almeno. Per la concezione dei secondi e degli anni e dei secoli che passano in questo spazio, Black Mountain, Boogie Lovers da capo. Yeah. Vabbè. Non... sì, siamo un po'... sì. Come dire, frastornati. Questo basculamento canale destro, canale sinistro finale. L'unione fra forse le due più grandi passioni che ci hanno accompagnato nella così lunga nella lunga storia di mettere dischi, come dire, Melvins che risuonano i Floyd dell'epoca super acida, quando si facevano di LSD in maniera fuori da qualsiasi regola. Quindi cover di Interstellar Overdrive dei Melvins, che invece sì, boh, non lo so quanto si sono fatti e... però insomma non ne hanno sbagliata una in tanti anni. Vabbè, con questo andiamo a chiudere e lasciamo libera questa Herve Sand of the World Remix per Omen dei Prodigy. E poi ce ne andiamo alle conclusioni. Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. Dai! Il nostro saluto più importante va ovviamente a tutte e tutte coloro che ci hanno ascoltato in condizioni di limitata libertà personale, carcere, arresti domiciliari, decreti amministrativi che ci costringono e li costringono e le costringono a una vita fatta di impedimenti. Le trasmissioni della radio continueranno con in compagnia della compagna automatica Sonata. Si riprenderanno poi domani mattina diciamo, si riprenderanno domattina con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa, la rassegna stampa cittadina e redazionali della mattinata, poi si riprende dopo la pausa con tutta scena cinema, alle 16 Attica Blues, oltre la Black Music, alle 17 La Schiena del Sol, alle 18 Il Mezzedes in redazione del pomeriggio di Onda Rossa, alle 20 Tabula Rasa, alle 23 Apostasia, chissà se ci saranno. Lasciamo libero di andare questo Omen versione Herve Sand of the World Remix. Prodigy. E poi ovviamente noi ce ne andiamo sotto la luna comunista. Dai! Bella a tutti e a mercoledì prossimo! Bella a tutte!